La tematica su cui mi interessa riflettere, grazie, è quella della finitezza della ragione, che è annunciata dal titolo dell'opera kantiana. La ragione, come semplice ragione, mi sembra che si debba intendere dal titolo, ha dei limiti, dunque è ragione finita. La ragione si mantiene nella propria semplicità se non eccede i propri limiti. L'intenzione di questa mia riflessione, che cercherò di proporre in modo forzatamente schematico, spero di riuscire a suscitare l'interesse di almeno tre lettori che poi potranno controllare che l'argomentazione c'è, ma mi è ovviamente necessario qui condensarla al massimo. Comunque, avverto che dunque la domanda che guida questa riflessione è la seguente: riesce la filosofia critica a costruire le proprie domande e a formulare le proprie risposte mantenendosi sul piano della finitezza della ragione sul quale si è posta? La domanda interessa, a me pare, in modo specifico il rapporto tra la filosofia critica e l'esperienza religiosa. Formulerei la questione in questi termini, articolerei, diciamo, questo mio asserto in questi termini. La religione rivelata mette alla prova la semplicità della ragione. Farò vedere come semplicità, semplice ragione, blosse Vernunft, non significa soltanto ragione finita. Vi è una valenza che scaturisce proprio dal rapporto della ragione con la religione rivelata, che va ovviamente subito segnalata. Ma al fondo ci sta questo richiamo essenziale per la filosofia critica, come tutti sappiamo, e per questo mi interessa riflettere su di esso, alla costitutiva finitezza della ragione. Dunque la religione rivelata mette alla prova la semplicità della ragione. Secondo punto, la rivelazione cristiana è stata tradotta teologicamente in una metafisica dell'infinito. Terzo punto, che anticipo, Kant non arriva, a mio giudizio, a criticare i presupposti di questa metafisica dell'infinito, ma lavora a svuotarli in nome della finitezza della ragione. Direi che questo, e naturalmente la mia prospettiva di lettura, questo accade al di là delle sue intenzioni. Di qui allora la tensione e i compromessi caratteristici, direi, del criticismo kantiano. E addurrei a primo sostegno, diciamo così, a prima riferimento testuale che ritengo importante di queste considerazioni introduttive, l'analisi puntigliosa che Kant svolge della fede in termini critici, di cui mi pare ha parlato con molta intensità questa mattina Mario Miegge, e dunque mi ricollego volentieri alla sua relazione, di cui a me pare che anche per chi legge Kant con un'attenzione orientata alla tradizione teologica cristiana, si deve fare notevole conto, perché vi è la sfida qui. Vi è, a me pare, la sfida di Kant nei confronti della teologia cristiana. Naturalmente Kant legato all'illuminismo, eccetera, eccetera, quindi tutto questo lo contestualizziamo anche in senso storico, ma ritengo che il problema sia tutt'altro che relegabile a un certo momento storico dello sviluppo del pensiero occidentale. E allora vorrei ricordare i termini duramente polemici che Kant adopera quando parla di Religionswahn, l'illusione religiosa. E quando poi articola nella Anmerkung, Allgemeine Anmerkung, che conclude la quarta parte, quindi in qualche modo l'opera, il concetto di Wahnglauben, di fede illusoria, secondo tre forme di fede illusoria, che sarebbero la fede nei miracoli, la fede nei misteri, secondo me qui misteri si deve leggere formulazioni dogmatiche. Non credo che Kant, e questo sosterrò, sia un critico del concetto di mistero in quanto tale, anche se, e tutti sappiamo, ci lavora molto e ci lavora molto di fino. nell'ambito della religione nei limiti della semplice ragione. Quello che Kant contesta è la formulazione dogmatica che non produce senso, e su questo spero di avere il tempo di approdare alla fine della mia riflessione. Il terzo concetto, la terza forma di Van Glauben, di fede illusoria, è la fede nei mezzi della grazia. Assieme ai concetti di fede ecclesiastico-statutaria, su cui ancora ha riflettuto già Miegge, queste considerazioni rimandano ad una pesante provocazione che Kant formula attraverso il concetto di Fetischglaube, fede feticistica. Ora, qui a me pare si tocca la corda drammatica della riflessione di Kant sulla religione, che è certamente, come ci ha detto il professor Malter, una riflessione, così almeno l'hanno ricevuta i contemporanei, condizionata anche da problemi di rapporto di Kant con l'autorità politica, e tuttavia è una, mi sembra, almeno io l'ho letto, come un testo di estremo coraggio. Vorrei allora richiamare il filo generale delle mie riflessioni, considerando che questa critica della fede feticcio chiama in causa la violazione dei limiti della ragione. Dunque, da questa perdita di sé, da questa abdicazione alla propria responsabilità costitutiva, la ragione si difende tenendo fede, soltanto tenendo fede ai propri limiti. Essa non si smarrisce come ragione solo a patto di non oltrepassare la propria finitezza. Questo mi sembra Hector Kant, per così dire, Kant autentico, anche se lo assumo, ripeto, come prospettiva di lettura. Rispetto a questo Fetischglaube, Kant si richiama, come sappiamo tutti, a una fede religiosa pura, che è fondata, egli dice, del tutto, fede religiosa pura, fondata del tutto nella ragione. Essa è la fede nella possibilità di diventare graditi a Dio mediante una buona condotta. Ecco, direi che qui ho sottolineato sinora quello che a me pare l'aspetto estremamente ardito della presa di posizione di Kant nei confronti della fede religiosa. Mi pare che attraverso questa riduzione del discorso sulla fede alla fondazione razionale, fondata del tutto, del medesimo, emerga l'aspetto riduttivo della riflessione kantiana sulla religione. Direi, scusate l'espressione che può suonare un po' violenta, ma l'incapacità di Kant di riconoscere la differenza del religioso, o la tendenza di Kant a disconoscere la differenza del religioso, attraverso questo esplicito, radicale tentativo di riduzione dell'esperienza religiosa a esperienza morale, esperienza della ragione morale. Direi che questo diventa clamoroso quando, per esempio, sempre nel testo dedicato alla religione, nel testo della Religion, Kant si esprime in questi termini: tutta la religione consiste nel considerare Dio, rispetto a tutti i nostri doveri, come il legislatore che tutti devono venerare, quindi Dio, la legge. Perché prosegue, cito così proprio a salti, citazione economica insomma, il concetto della divinità, propriamente parlando, deriva soltanto dalla coscienza di queste leggi e dal bisogno della ragione di ammettere una forza di procurare loro, in armonia con il fine morale ultimo, tutto l'effetto possibile in un mondo. Ecco quel problema del momento esecutivo su cui rifletteva la relazione di Mori ieri e che mi sembra che qui in qualche modo ritorna. Ma quello che a me interessa è sottolineare che il concetto della divinità, propriamente parlando, deriva soltanto dalla coscienza delle leggi e dal bisogno della ragione. Io non vorrei aggiungere un ulteriore elemento sulla Wirkungsgeschichte Kants, ma direi che ciò su cui sia in sede teoretica sia in sede storica non si può non riflettere è che questo Dio, questo concetto della divinità è funzione della ragione. E cioè Kant a questo punto mi sembra che riveli come la sua adesione al cristianesimo avviene nei termini di una critica razionale che può fare posto soltanto a quella fede che pone l'essenziale di ogni culto, qui cito ancora l'essenziale di ogni culto di Dio nella moralità dell'uomo, l'essenziale di ogni culto di Dio è nella moralità dell'uomo. Dico che questo Dio è un Dio funzione della ragione. Guardate che questa espressione, penso, non possa, non debba scandalizzare nessuno. La usa papale Cassirer nella sua Vita di Kant. Dal punto di vista della mia riflessione, allora direi che questo Dio viene ormai spogliato del suo mistero e tuttavia vedremo che ricompare l'apertura al mistero nella esperienza kantiana della religione. Questo Dio, nella formulazione kantiana, viene spogliato di ogni mistero per fornire l'esistenza di quel supplemento di senso metafisico di cui non può fare a meno. È un Dio garante dell'ordinamento morale del mondo, senza cui viene meno il senso della nostra vita morale. Anticipo quello che il seguito della mia riflessione articolerà ulteriormente e rimando, come già detto in premessa, ad una più articolata, non pretendo convincente, argomentazione alle pagine che poi verranno pubblicate. Il secondo punto della mia relazione si intitola a questo punto, si intitola a questo momento Kant e la religione cristiana, l'impensato della semplice ragione, l'impensato della semplice ragione. Vorrei riflettere, chiarite queste premesse che ho posto, ma qui sono costretto a condensare estremamente un punto che peraltro è per me, nell'ambito anche di una prospettiva più ampia di riconsiderazione nella quale sono impegnato, sulla quale ho già scritto varie pagine a stampa, quello che per me a questo punto è essenziale avere in vista è dove si inscriva questa problematica della semplice ragione, che viene assunta, mi pare, normalmente come una sorta di ovvietà, mentre ovvietà non è. Che la ragione sia semplice ragione, ecco, dicevo, significa per me fondamentalmente, per me lettore di Kant, e credo per qualsiasi lettore di Kant, ragione finitezza. Ma significa altresì semplice ragione, in contrapposizione a fede rivelata. Che cosa significa? La ragione che è stata, la ragione che in quanto ragione cristiana, la ragione che in quanto ragione cristiana, divenuta cristiana, è stata destituita del proprio rapporto originario col divino che era tipico della religiosità greca. Metto subito avanti le mani, nessuno pensi che io insegua il mito di un ritorno alla Grecia, era il mito però dei giovani romantici, turbati. Alla scuola di Schiller, ecco il riferimento alle considerazioni del professor Malter, turbati alla scuola di Schiller da questa scissione che introduceva il moralismo kantiano, contrapposizione ragione-natura, ragione-sensibilità, turbati altresì da questa idea di un Dio della legge, di un Dio come legge. Il giovane Hegel, lo Hegel di Francoforte se non ricordo male, identifica questa concezione del cristianesimo con il giudaismo. Ed è la tematica della scissione che già si impone, della Entzweiung, anche se non wörtlich, che già si impone, ma der Sache nach direi, che già si impone alla riflessione del giovane Hegel. Allora mi interessa richiamare, ed è importante anche per lo sviluppo della mia riflessione, che questa semplice ragione è la sola ratio che non può comparire in altro contesto che in quello della teologia cristiana. L'espressione, come sapete, almeno a mia scienza, ricorre per la prima volta, non a caso, proprio nel Monologion di Anselmo, quando Anselmo intende dimostrare sola razione che esiste Dio. Devo dire, siccome mi sto per introdurre a qualche accenno alla dialettica trascendentale della ragion pura, devo dire, dunque Kant prende in considerazione in quelle pagine le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, oggi mi pare che una relazione sarà proprio su questo tema, devo dire che l'ansia, la necessità di dimostrare sola razione che Dio è, si trova soltanto nella tradizione cristiana, la quale si avvale bensì di elementi, di abbozzi, di prove che ci sono in Platone, che ci sono in Aristotele, lo sappiamo tutti, che non hanno però quei tentativi di dimostrazione, quel significato radicale che assumono nell'ambito, a mio giudizio, che assumono nell'ambito della tradizione cristiana in ragione della scissione ragione-fede che si produce ovviamente soltanto in ambito cristiano. Sola razione per Anselmo vuol dire io credo e adesso con la ragione arrivo laddove la fede comunque è. Voi capite che nessun greco non solo ha voluto, ma non ha potuto mai pensare in questi termini. Ora, credo di dire delle ovvietà, sulle quali però a me pare si riflette troppo poco, perché qui veramente è la radice della riflessione sulla problematica denominata a partire da Heidegger ontoteologica, ma il termine tutti sappiamo è kantiano. Heidegger dà una curvatura problematica a questa espressione kantiana e impone contro Heidegger la necessità di distinguere profondamente tra l'esperienza greca e l'esperienza cristiana, quindi riapre tutta la controversia a mio giudizio sull'ontoteologia, sul nichilismo e via dicendo, che è drammaticamente legato a mio giudizio e come sto ora per dire alla problematica cristiana della creazione. E badate che non ho nessuna intenzione liquidatoria nei confronti del cristianesimo nel tentare di portare alla luce queste che mi sembrano però le responsabilità metafisiche su cui la teologia cristiana, oltre che la filosofia, deve avere, a mio giudizio, il coraggio di riflettere. Allora vorrei dire, ecco perché parlavo dell'impensato della semplice ragione, che mentre Kant, in sintonia con la sua ispirazione palesemente illuministica, mentre Kant si sente in dovere di tradurre l'esperienza della fede in una concezione razionale e direi spesso razionalistica del credere, non si pone la questione del credere in quanto tale. Ecco l'impensato di Kant. Ed è in questo radicalmente appartenente appunto alla tradizione cristiana, che assume ormai come un'ovvietà che ci sia da una parte la fede di tipo dogmatico, la fede in una rivelazione soprannaturale, ma Kant vuole reagire contro il soprannaturalismo dogmatico. Ma da dove deriva questo soprannaturalismo? Da questa scissione che il cristianesimo ha prodotto tra ragione e fede. Il cristianesimo ha le sue ragioni, ma una riflessione come quella di Kant perde la propria radicalità nel momento in cui non investe il problema alla radice. Il cristianesimo ha le sue ragioni, poi resterebbe da pensare in sede teologica se la lettura metafisica della rivelazione cristiana è l'unica possibile, e questo è un problema che travalica indubbiamente i limiti di questa relazione, non della semplice ragione, ma di questa relazione. Vengo al terzo punto, la pura ragione davanti all'abisso. Richiamavo allora che il concetto di sola ratio fa la sua comparsa nel contesto delle dimostrazioni teologico-cristiane dell'esistenza dimostrazioni razionali dell'esistenza di Dio. Vorrei dire che se abbiamo presente questo, e cioè che la prestazione fondamentale della sola ratio è quella di dimostrare che Dio esiste, nel momento in cui con Kant entrano in crisi le prove tradizionali dell'esistenza di Dio, abbia o no Kant ragione nei confronti delle dimostrazioni razionali, consentitemi di lasciare questa questione in sospeso. Qui non possiamo prescindere dalla Wirkungsgeschichte, e il fatto, e la dialettica trascendentale è il nodo drammatico della critica della ragion pura anche per i lettori contemporanei, che arrivati a questo punto tremano davanti all'abisso che si spalanca davanti alla semplice ragione. Questa ragione dunque che si trova destituita e messa in crisi rispetto a quella che riteneva essere la sua prestazione e dunque in qualche modo anche garanzia fondamentale. Ma non solo i lettori, è Kant che trema davanti all'abisso. Il termine abisso l'ho introdotto nel mio titolo perché è un termine kantiano, come sanno tutti i lettori di Kant. Direi, schematizzando e senza nessuna pretesa di completezza, che nell'ambito della dialettica trascendentale l'abisso davanti al quale si ferma e trema la semplice ragione è duplice: quello della necessità incondizionata da un lato, e dall'altro, ma è complementare, quello del nulla. Consentitemi una breve citazione di passi notissimi, per me di straordinaria forza, è per me il Kant di queste righe, un Kant quasi allucinato, che mi sembra anticipare quelle pagine sconvolgenti di Jean Paul, ne parlava stamattina il professor Malter. Certamente il discorso del Cristo morto di Jean Paul penso vada collegato per affinità, ma forse anche per ragione di come fonte, insomma, forse Kant è la fonte di quelle pagine. Non sono in grado di dare sostegno a queste mie, e se qualcuno mi smentisce dichiaro subito che non mi offendo, qui lo dico e sono pronto a negarlo, ma mi pare che l'affinità che si rivela tra questa pagina kantiana che sto per leggere, L'abisso della necessità incondizionata, e pagine di Jean Paul che meriterebbero di essere più attentamente considerate anche dai filosofi, l'affinità che si rivela è fortissima. Allora, dice Kant, due cose fanno inorridire la ragione che ha perduto il suo rapporto costitutivo con il divino del mondo, qui parla il sottoscritto. A un lato, l'orrore della trascendenza assoluta dell'essere supremo. Perché dico orrore? Perché l'essere supremo, l'ente assolutamente necessario, è colui che, dialettica trascendentale, si pronuncia in questi termini riguardo a se stesso. Io sono dall'eternità per l'eternità. Oltre a me non c'è nulla, tranne ciò che è solo per mia volontà. Io dunque, donde sono? Questo Kant insolito, ecco, prosegue in questi termini. Qui tutto sprofonda sotto di noi e la massima come la minima perfezione pende nel vuoto, senza sostegno innanzi alla ragione speculativa, alla quale non costa nulla fare sparire l'una come l'altra, la massima come la minima perfezione, senza il più piccolo impedimento. Ecco l'abisso della necessità incondizionata, a cui corrisponde l'altro lato che dicevo complementare, l'abisso del nulla in cui tutto dovrebbe precipitare. Queste sono le parole di Kant, a meno che non si supponesse, dice Kant, una causa suprema necessaria. Ma siccome l'abbiamo resa problematica, ecco che l'abisso è aperto. Ed ecco che la ragione, in quanto ragione speculativa, non può che sostare sull'orlo di questo abisso. O lo sostiene, e allora è ragione finita. O lo nasconde e allora diventa fetish glaube. E questo non c'è in Kant, ma mi sembra tutt'altro che indiscreto, tutt'altro che indiscreta esplicitazione. Vorrei ricordare che l'idea che attraverso queste pagine passi la questione del nichilismo non è soltanto mia, ma di illustri lettori di Kant. Ricordo un bel saggio di Löwit, Carl Löwit, dedicato proprio alla religione, e vorrei ricordare uno studioso di Kant che a me pare di grande lucidità, Walter Brücker, perché mi pare che qui il problema del nichilismo prima di tutto non sia eludibile. Nichilismo in Kant, non sto a dire Kant nichilista quanto nichilista è Kant, ma che il problema sia questo è evidente a mio giudizio. Ma che cos'è nichilismo a questo punto? Ebbene, Kant è il grande anticipatore di Nietzsche, senza del quale Nietzsche è illeggibile. Il nichilismo è l'esperienza della sdivinizzazione del mondo. Il mondo è totalmente sdivinizzato nel momento in cui prima questa causa suprema è diventata totalmente trascendente, metafisica cristiana. Dio è creatore, quindi totalmente separato. Il mondo è ontologicamente superfluo rispetto alla perfezione somma di Dio, e qui non vi è miracolo teologico che possa attenuare questa drammatica conseguenza della teologia della metafisica cristiana. Allora qui di nuovo il problema è: se il cristianesimo è la metafisica che abbiamo conosciuto fin qui, io non vedo come si possa eludere questa conseguenza. Se viceversa il cristianesimo può essere pensato in altri termini, bene, si faccia avanti la ragione nei limiti che ritiene di dover mantenere. Ma qui mi pare che il problema sia, questo sia il vero problema speculativo di queste pagine. Perché la ragione trema davanti all'abisso, perché appunto, come semplice ragione, non ha più la protezione della fede. Diciamo che è stata esposta dalla fede a questo confronto terribile, tremendo, con i propri limiti. La ragione è stata esposta dalla fede a questo confronto con i propri limiti. Ogni sforzo dimostrativo si rivela precario, allora la ragione, in quanto semplice ragione, è una ragione sostanzialmente, necessariamente in crisi. È vero quello che si diceva nella relazione di ieri di Hinske, del professor Hinske, che non vi è da parte di Kant la liquidazione della prospettiva teologica, certamente no. È vero che vi è la limitazione dell'arroganza, della presunzione della scienza, certamente sì, ma la ragione che tuttavia si mantiene tra queste due alternative, teologia e scienza, è una ragione costitutivamente in crisi perché è finita. Qual è allora la risposta di Kant a questa angoscia nichilistica, direi? Qual è la risposta di Kant? Appunto la fede razionale di cui ragionavamo, che introducevo prima. Il Vernunft Glauben, che traduce il Vernunft Bedürfnis, la fede razionale, che traduce il bisogno della ragione, a cui, ricordiamo tutti, la ragion pratica risponde in termini di für wahr halten, tener per vero. Sull'abisso che cosa si può fare? Tener per vero che la libertà, l'immortalità, Dio, i postulati del senso dell'esistenza, non già il riconoscimento di Dio come alterità rispetto alla finitezza dell'uomo, ma quei postulati di cui la finitezza dell'uomo si serve per sostenersi davanti all'abisso. Questo credo che sia, detto molto schematicamente, ne chiedo scusa, il senso del primato della ragion pratica rivendicato da Kant a questo punto, e che si riflette ancora e che ispira fondamentalmente, a mio giudizio, la articolazione e l'argomentazione degli scritti sulla religione. Ma vorrei, prima di abbandonare questo rapido riferimento alla ragion pratica, dove per me è fondamentale sottolineare che dunque la problematica si risolve in una tensione tra bisogno della ragione a cui risponde il für wahr halten della ragione. Nietzsche dirà: Glauben ist für wahr halten, e cioè dirà Nietzsche: fede è falsità. Ora, certamente la conseguenza di Nietzsche è intemperante, però diciamo che Kant gli ha fornito i cannoni per sparare in questa direzione contro la tradizione metafisica. Ma Kant infatti è pesantemente compromesso, diciamo, con questo momento di radicalizzazione dell'esperienza della soggettività, non voglio dire soggettivistica, che sarebbe un termine pesantemente liquidatorio, ma che qui emerga, che prorompa proprio l'affermazione della soggettività moderna, mi pare incontestabile. E allora leggo un passo della, brevemente, poche righe, della ragion pratica, dove si dice che, dove Kant trae la conclusione che, posto che la legge morale, nella sua purezza, vincoli ciascuno in modo inflessibile, l'uomo retto, parole di Kant, può ben dire, l'uomo retto può ben dire: io voglio, ich will, io voglio che vi sia un Dio, das ein Gott sei, io voglio che vi sia un Dio, perché io sono un uomo onesto, cioè perché io rispondo all'imperativo della legge morale. Dunque io posso volere, io sono colui che è titolato a volere che ci sia Dio, che la mia esistenza in questo mondo, anche al di là della connessione della natura, sia ancora un'esistenza in un mondo puro dell'intelletto, e infine che la mia durata sia senza fine. Io posso volere tutto questo perché io sono onesto. Io tengo fermo a tutto questo e non mi lascio portar via questa fede. Questa è la conclusione di questa stupenda, straordinaria pagina kantiana. Che significa allora questo ich will? Vengo alla parte conclusiva, Presidente. Ti prego di sollecitarmi. Vengo alla parte conclusiva e qui allora vorrei introdurre il problema del male, ritornando alla riapprodando alle pagine sulla filosofia della religione dalle quali avevo preso le mosse. considerando però in primo luogo il significato di questo Ich will, in cui si esprime allora il bisogno della ragione che si sa onesta, cioè obbediente all'imperativo della legge morale. Direi che qui è evidente che, quanto anticipavo, che allora non Dio è ragione, ma la ragione è Dio. E cioè diventa esplicito che insomma Dio è in funzione del bisogno della ragione. Anche se in questi termini Kant ovviamente non si esprime mai, ma io domando che cosa possono significare le movenze fondamentali, oltre che le documentazioni testuali addotte. E cioè prorompe attraverso questa, ecco, dicevo, radicalizzazione dell'esperienza della soggettività, questa domanda di senso davanti all'abisso, questa esigenza di senso, Vernunft bedürfnis, davanti all'abisso, che trova la sua soddisfazione sul piano della volontà, della ragion pratica, cioè della ragione che ormai è volontà di senso. Il vero nome della ragion pratica è volontà incondizionata di senso. Dunque Kant che arretra, Kant che arriva all'abisso, Kant che arretra davanti all'abisso. Dunque Kant che in qualche modo perde quella prospettiva di finitezza che ha potentemente introdotto, perché questa ragione, questo Ich will, si traduce surrettiziamente nella volontà perfetta di quell'essere ragionevole che noi, dice Kant, dobbiamo in qualche modo tentare di pensare. Ricordate quelle altre righe della ragion pratica, perché avere bisogno di felicità, cito, ed esserne anche degni, e tuttavia non avere parte ad essa, non può essere compatibile col volere perfetto, ein vollkommenes Wollen, di un essere razionale, il quale insieme avesse ogni potere, alle Gewalt. Solo che noi solo tentiamo di pensare un tale essere, wenn wir uns auch nur ein solches Wesen zum Versuche denken. L'ipotesi, il tentativo della ragione è la risposta alla esigenza inderogabile della ragione, alla sua volontà incondizionata di senso. La mia domanda è: questa ragione che si identifica con la volontà perfetta di questo ipotetico essere razionale è ancora una ragione finita? A me pare allora che l'interesse della problematica della religion, che insomma bisogna considerare, rappresenta una riflessione sulla religione a partire dal problema del male. Ecco, il fatto che è un puro fatto per certi versi editoriale, cioè Kant aveva scritto prima questo saggio, però probabilmente rivela una intenzione più interessante e profonda e comunque stimola ad una riflessione un tantino più impegnata di quella che è la mera, di quella che è possibile in termini di mera registrazione di una contingenza estrinseca. La riflessione sulla religione inizia dal problema del male. L'esperienza della religione è, almeno in limine, l'esperienza del male radicale. Allora direi che rispetto alla ragion pratica, beh, è evidente a tutti, qui vi è un'accentuazione del tema della colpa che nella ragion pratica, a mia scienza, ma autorevoli lettori sono totalmente consenzienti su questo, il tema della colpa nella ragion pratica non è posto, soprattutto non è posto il tema di una colpa radicale, cioè di una tendenza al male alla quale consegue poi ogni colpa determinata. Prima domanda che io mi debbo porre, che io debbo porre alla mia riflessione è: qual è il rapporto di questo momento cruciale, a mio giudizio un momento cruciale, tutt'altro che senescenza, e non a caso è stato il momento in qualche modo più provocatorio nell'ambito della recezione kantiana. Qual è il rapporto di questa esperienza del male con il cristianesimo? Dunque qui è sempre la morale che conduce alla religione, come Kant tiene fermo lungo tutto lo sviluppo della religione, è la morale che conduce alla religione o non è la religione che conduce alla morale? Kant qui è in imbarazzo e direi che è proprio il suo razionalismo che è vittima di questo imbarazzo. Nella ragion pratica proseguirei a considerare, e qui vi è una bella espressione di Eric Weil che mi permetto di anticipare rispetto alla relazione di Sicchirollo, nella ragion pratica la volonté è tout puissant, è onnipotente, nel senso, non nel senso che Kant disconosca così platealmente i limiti, ma nel senso che è tutta affermativa. La libertà è la condizione dell'affermazione della dignità dell'uomo nel mondo. Bene, qui nella religione direi che invece questa prospettiva affermativa è sottratta dall'inizio, perché la libertà rivela il proprio lato tenebroso. Prima che come forza di promozione dell'esistenza al di là dei suoi condizionamenti naturali, essa viene quasi presentata come potenza di perdizione. Non credo di enfatizzare quella che è la tensione drammatica di queste pagine, in quanto permette all'uomo, come sappiamo, di sovvertire l'ordine morale, l'ordine dei motivi che accoglie nelle sue massime. Allora direi che qui c'è, al di là delle intenzioni di Kant, non penso che di ricostruire un disegno esplicito, però penso di ricostruire un disegno profondo che almeno per la mia lettura mi consente di tenere assieme queste istanze contrastanti della riflessione kantiana. Vi è un recupero della finitezza, nel senso che questa origine del male, che in realtà non spiega nulla, perché il dire che il male risale ad un atto di cui non abbiamo nessuna possibile esperienza, ma che in qualche modo ricostruiamo in termini in termini totalmente a priori rispetto all'esperienza che poi è invece, secondo lui, quella del male. E naturalmente qui si tratterebbe di porre il problema ermeneutico: come tu fai a dire che qualcosa è male? E Kant risponderebbe in virtù di un'idea a priori, in virtù di questa fondazione a priori del male radicale. Per esempio, ecco, Weil, Eric Weil, sempre mi riferisco qui a un punto soprassiedo, casomai ne riparleremo in sede di discussione, e l'ho trovato. Kant, dice Weil, non parla del male radicale perché è cristiano. Mentre, dice Weil, egli può voler comprendere e giustificare il cristianesimo, dunque non il male radicale perché è cristiano, come in qualche modo insinuava invece la mia domanda, ma egli può voler comprendere e giustificare il cristianesimo perché ha visto il male radicale nella natura morale dell'uomo. Io questo vedere il male radicale è certamente una costruzione della ragione, una costruzione direi che non spiega nulla, così come il dogma del peccato originale non spiega nulla, ci mette davanti a un fatto, ci mette davanti all'inesplicabile. Questo è Kant, infatti lo dice esplicitamente: il principio del male è unerforschlich, inindagabile. Direi allora che nel caso di Kant l'esperienza del male, l'esperienza dunque in questi termini difficili da controllare perché non si tratta di nulla di fenomenico, nel caso di Kant l'esperienza del male costringe l'affermazione pratica della ragione a riscoprire il limite scandaloso e doloroso che è nella ragione stessa e che le permette di rivolgere il suo potere di libertà contro di sé. Qui dunque, ribadisco, a me pare è la religione a fare luce sui limiti della morale, a distruggere la sua pretesa di autonomia assoluta, a obbligare la filosofia a ritornare sul terreno della finitezza, che essa non può tradire. La religione del male originario, il cristianesimo, sollecita dunque la filosofia dei limiti della ragione, al di là delle restrizioni anguste che derivano dal suo razionalismo e dal suo umanismo. Chiudo con due considerazioni. La prima è la seguente: se lo scandalo del male rappresenta la soglia d'accesso al problema della religione, esso rivela lo scandalo del male, come i limiti della semplice ragione siano tenuti fermi da Kant solo contro l'irrazionalismo della fede, non contro l'inesplicabile dell'esistenza. Ecco perché dicevo che a mio giudizio il concetto di mistero non è affatto liquidato da Kant. Kant è continuamente sulle tracce dell'inesplicabile dell'esistenza. Noi sappiamo bene come la stessa esperienza, il factum der Vernunft che fonda la riflessione della ragion pratica, è per Kant unerforschlich. Esso dunque mentre rivela il lato terribile della libertà, consente alla ragione di ritrovare la finitezza che la definisce come ragione umana. La finitezza costituisce l'esistenza dell'uomo nel rapporto con l'alterità da cui dipende, e che ne impedisce questa alterità da cui l'uomo dipende, questa alterità che trova in sé la riduzione nell'ambito del fenomenico, ovvero nell'ambito del calcolabile. Certo, qui le istanze che mi sembra presiedessero alla riflessione del professor Inske sono radicalmente in luce. L'uomo non si riduce al fenomeno. Insisto nello stesso tempo su questo tema dell'alterità nell'uomo, a cui mi sembra che la riflessione kantiana dia accesso, perché vorrei superare, qui mi riferisco all'amico Ferretti, quella tensione tra immanenza e trascendenza che a me pare è tutta dal lato della ontoteologia, della tradizione metafisica, da cui a me pare, ovviamente pieno rispetto per le opinioni divergenti, la riflessione kantiana, la radicale istituzione kantiana della finitezza della ragione, inviti il pensiero a, non dico liberarsi che è un brutto termine, ma certo a averla l'audacia di metterla in discussione. Secondo considerazione conclusiva, l'inesplicabile allora non è trascendente, è altro, è l'altro nella ragione. Della ragione, se volete. Qui allora tornerei a quelle che anticipavo come prese di posizione di Kant, non tanto verso il mistero in quanto tale, ma verso qui diceva quel catalogo, diciamo, del Van Glauben, diceva la fede nei misteri, cioè io dicevo nelle formulazioni dogmatiche. Cito un passo, una nota molto bella della religione, quando Kant dice: non ci si fa ordinariamente alcuno scrupolo di esigere dai neofiti della religione la fede nei misteri, e prosegue dicendo, vi è qui una specie di teoria semantica appena abbozzata, interessante perché proietta tutta la problematica della fede, l'esperienza della fede, nella direzione di una teoria linguistica. E cioè Kant dice, quando si aderisce a determinate formulazioni dogmatiche, bisogna domandarsi di cosa si riesce a pensare. Perché un conto è mettere assieme alcune parole, ciascuna delle quali separatamente ha senso, ma il problema qual è? Il problema è vedere se il loro assemblaggio fa senso. Questo è molto bello, molto audace, e Kant sta criticando niente meno che l'adesione dogmatica al mistero della Trinità. E come ricostruiva ieri l'amico Ferretti, ritiene, a mio giudizio, assolutamente superflua la ipostatizzazione di quell'ideale di perfezione che è espresso nella figura di Gesù. Di seguito a queste righe Kant considera ancora che non ci si può illudere che ciò che non comprendiamo assolutamente in quanto formulazione dogmatica possa diventarci accessibile in virtù di una Eingebung, di una ispirazione divina, perché dice questo violerebbe i limiti del nostro intelletto. Ecco il Kant straordinario. È quel Kant che qualche riga dopo prosegue, si pronuncia in questi termini. Direi che sono affermazioni queste di Kant di enorme portata, certamente al di là delle intenzioni esplicite di Kant e certamente tali da far sobbalzare il censore del governo prussiano. Se Dio parlasse veramente all'uomo, questi tuttavia, se Dio parlasse, Dio in quanto Dio parlasse veramente all'uomo, questi non potrebbe mai sapere che è Dio che gli parla. È assolutamente impossibile che l'uomo, mediante i suoi sensi, colga l'infinito, lo distingua dagli esseri sensibili e lo riconosca da qualche segno. Questo è Kant. E qui è la crisi della metafisica dell'infinito, a cui Kant aderisce, ma che, dicevo nelle premesse, svuota. Qui è la prospettiva su cui occorre riflettere al di là di Kant, non la prospettiva teistica della negazione di Dio, ma la prospettiva, direi inevitabilmente metacristiana, non anticristiana, di un Dio del limite. Su questo pensiero chiudo la mia relazione.